Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo con il professor Wasim Dakhmash per parlare del documentario 1948, Creation and Catastrophe, che sarà proiettato giovedì 10 maggio al Cineforum Palestina, all'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico nella sala Zavattini. Wasim, benvenuto. Salve. Salve, ciao. Raccontiamo brevemente questo lavoro? Sì, dunque è un lavoro molto interessante di taglio storico. L'autrice è una storica, una docente universitaria che insegna negli Stati Uniti e in queste sue ricerche le è capitato, insomma, di trovare alcuni testimoni diretti, no, della pulizia etnica del 48-49, e quindi li ha intervistati e ha costruito questo film. Com'era nato il progetto? Sai qualcosa? No, lei sta facendo una ricerca come fanno, insomma, gli studiosi. Voleva fare costruire un libro basato di storia orale, quindi basato sulle testimonianze dei diretti interessati, no? Perché poi su documenti storici, documenti di archivio, eccetera, c'è una miriade di lavori, quindi voleva trovare qualcosa di originale. E casualmente ha intervistato un israeliano che aveva partecipato come militare alla pulizia etnica dei palestinesi, e quindi da lì è nata l'idea di costruire un documentario fatto appunto di testimonianze, ma non da parte palestinese, che ce ne sono, ma da parte israeliana. Che tipo di distribuzione sta avendo il documentario, che è del 2017? Ma al momento, dunque, è stato in Europa, la prima proiezione è stata quella del Festival di Cagliari all'Arco, quindi di qualche settimana fa. In Europa non è stato ancora eseguito, e andrebbe molto bene nell'ambito di corsi di storia del Medio Oriente, perché effettivamente è un documento storico. Ovviamente non è sufficiente, però insomma potrebbe far parte di un corso di storia sulla storia della Palestina, storia di Israele o della Nakba, della pulizia etnica. Attraverso filmati d'archivio e interviste, testimonianze dirette, qual è il quadro che viene fuori da questo lavoro? Viene fuori, c'è tutta una letteratura, diciamo così, di parte israeliana, che allora, stiamo parlando appunto dei primi anni 50, no? Molto critica dell'operato dell'establishment sionista. Ora questa parte si tenta di nascondere, di eliminare, e ne viene fuori un quadro abbastanza particolare, nel senso che ci sono dei testimoni dei massacri, di quel che è stato fatto allora da parte israeliana, semplicemente, dove i testimoni non erano necessariamente antisionisti, oppure spesso erano asionisti, cioè non potevano esserlo o non esserlo, no? Sì. Erano giovani, ingannati più o meno da quello, poi hanno visto quello che è stato fatto e al quale hanno partecipato anche loro, e quindi sono, come dire, un po' dei pentiti, forse non pienamente sono testimoni comunque preziosi. Che tipo di informazioni ci sono in rete rispetto a questo documentario? Esiste un sito internet, una pagina Facebook? Al momento si trova nel sito di Al-Ard, no? E dell'Associazione di Amicizia Sardegna-Palestina. Si Sì. può trovare la sinossi di questo film. Bisogna ricordare anche, forse vale la pena dirlo, no? Che per la prima volta vari gruppi di cineasti palestinesi partecipano con uno stand per la prima volta autonomo e indipendente al Festival di Cannes, tra cui anche l'Associazione Sardegna-Palestina e il Festival Al-Art di Cagliari. Sì. Dopo Quindi anche lì ci sarà. la proiezione, ci sarà prima la tua introduzione e poi il documentario e a seguire anche un dibattito? Spero di sì, speriamo che ci sia abbastanza interesse da poter intavolare un discorso sull'argomento. Benissimo. Allora ricordiamo l'appuntamento di giovedì 10 maggio con il documentario 1948 Creation and Catastrophe alla Sala Zavattini della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio Democratico con l'introduzione di Wasim Dakhmash. Wasim, ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Siamo con Matteo Pavesi della Fondazione Cineteca Italiana per parlare di 1968-1978 Italian Box Office a Milano in tre diversi luoghi dal 3 al 28 maggio. Matteo, benvenuto. Grazie di avermi invitato per questa rassegna a cui teniamo molto, che è una rassegna, diciamo, cartello per Milano, perché diciamo, i film vengono proiettati allo Spazio Obera, al Museo, al Franco Parente, eccetera, però ci sono poi molte altre iniziative, mostre, incontri organizzati dall'Università o da Feltrinelli e da altri enti ancora, che costituiscono davvero un palinsesto molto originale e molto bello. Senti, il progetto com'era partito? Ma allora, il progetto è partito, diciamo, attraverso una serie di riunioni che quasi naturali su un coordinamento tra, no, tra istituzioni per non sovrapporre le attività legate a questo tema, a questo momento. E questo coordinamento informale poi si è allargato al comune, quindi poi il comune ha accolto le diverse iniziative in un palinsesto che è il palinsesto del Novecento e l'articolazione è diventata una bellissima articolazione. Devo dire che l'offerta su questo tema è un'offerta, l'offerta milanese è un'offerta di livello, insomma, molto bella. Senti, ci focalizziamo sul cinema? Certo, quello poi è un po' il nostro pane, per cui e noi abbiamo per il 68, per festeggiare, ricordare il 68, abbiamo pensato a questa chiave, cioè ci siamo posti sostanzialmente dalla parte degli spettatori e ci siamo domandati qual è stato l'immaginario che tra il 68 e il 78, abbiamo preso un decennio, ha formato gli spettatori di allora. Quali sono stati i film che in qualche modo sono stati decisivi nel raccontare la storia di quel periodo lì? E sappiamo benissimo che il cinema è un termometro formidabile, per cui diversi film che noi presentiamo, in qualche modo a 50 anni di distanza, sono una lettura estremamente interessante, no? Di quel periodo e degli umori di quel periodo, anche se non, questi umori, queste tensioni magari non vengono raccontate in modo diretto, ma vengono mediate da il grande spettacolo. Per cui in quel periodo ci sono film come Campioni d'incasso, come non so, King Kong, o come lo stesso Guerre Stellari nel 78, che in qualche modo ci raccontano atti di ribellismo, atti di necessità di libertà, ce lo raccontano in una chiave grandiosa, in una chiave hollywoodiana, se vogliamo, però sicuramente raccolgono i germi di quel periodo. Ovviamente nella rassegna non ci sono solamente i blockbuster americani, ma ci sono anche altri film che sono stati blockbuster in modo del tutto inaspettato. Ad esempio, oggi, in apertura della rassegna, mostreremo una parte del film documentario Helga, che è stato nel 1978 l'incasso più importante in Italia. Come se, ecco, un documentario oggi facesse circa 20 milioni di euro come tipo di incasso. Sì. Questa cifra esorbitante è strabiliante rivedendo il film, perché sostanzialmente Helga è un documentario tedesco che racconta come ci si avvicina al parto, quindi tutti gli esercizi, la respirazione, la dieta e tutto quello che necessita per una mamma in quel momento lì, e poi c'è questo momento clou che è il parto, ripreso in modo insomma esplicito, però è un parto come tutti i giorni capita al mondo, molti bambini nascano. Ecco, questo film nella sua semplicità nel 68 è stato, come dire, un film che ha colpito l'immaginario italiano e non solo, e probabilmente ha aperto anche la strada a tutto quel filone documentaristico che poi si affermerà anche in modo, possiamo dire, un po' becero, legato sicuramente alla natura, ma poi dopo all'Africa, ma poi dopo ai costumi, e poi dopo, insomma, sì, con qualche degenerazione nel raccontare. Però ecco, nel 68, in quel periodo, si aprono le porte non solo al grande cinema hollywoodiano, ma anche a film in qualche modo spiazzanti, che rivelano la vivacità, la produttività di quel decennio. Matteo, 68-78, un decennio come simbolo di sconvolgimento globale? Ma sicuramente, perché allora il cinema in quel periodo lì è un cinema estremamente rigoglioso, ma che ha nella sua struttura già tutti i segni della crisi, e per cui prova tante strade, e in questi termini rivoluziona, cerca di rivoluzionare l'immaginario, il pubblico che incomincia a sedersi davanti alla televisione. Sono film forti, che lasciano un segno, voglio dire, poco prima del 68 c'è Il pugno in tasca, ma in quel decennio c'è un film come Ultimo Tango, che è un film che a livello proprio culturale cambia tante cose. Oppure ci sono film di straculto e estremamente interessanti come Jodorowsky, La montagna sacra o I diavoli di Ken Russell, che sono film che magari non sono nella top ten del linguistico, hanno cambiato le sorti del cinema. Sì. Matteo, parliamo anche di un altro progetto, La biblioteca del cinema, La Martesana come un film. Sì, allora, diciamo che nell'ex archivio delle pellicole, oggi le pellicole sono presso il museo, nel vecchio archivio abbiamo convertito lo stabile dell'archivio, che è uno stabile molto bello, in un giardino lungo la Martesana, nella biblioteca della Cineteca, nella biblioteca, e poi sarà anche la videoteca dove si potranno consultare appunto i DVD, i video, insomma, a nostra disposizione, che sono migliaia e migliaia. In quel posto, diciamo, è nata appunto adesso la biblioteca, che è nata grazie anche alla donazione di tutti i volumi di Morando Morandini, che sono tantissimi, oltre 10.000. E nel corso dell'anno sono accumulate, insomma, altre donazioni. Una particolarmente importante è stata quella dello showman Paolo Limiti, che ci ha lasciato in eredità i suoi libri e le sue riviste. Libri e riviste davvero preziose, per lo più in lingua inglese, ed edizioni davvero ricercatissime, e anche lì stiamo parlando di circa 7-8 mila volumi, più le riviste degli anni 50-60, per cui davvero un lotto molto importante. Le richieste aumentano, e quindi siamo in queste settimane allestendo una nuova sala di consultazione e come dire, e stiamo ristrutturando la parte esterna del giardino in modo che sia, come dire, utilizzabile dal pubblico anche in una chiave di relax. Quindi a giugno presenteremo la nuova veste di questa biblioteca, consultazione multimediale, e una parte esterna estremamente goduriosa, dove si può leggere, chiacchierare, ascoltare musica, farsi un caffè in questo bellissimo contesto. Benissimo, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più a questo proposito? Beh, io direi che se si va su cinetecamilano.it ci sono le proiezioni, quindi la rassegna del 68 Italian Box Office, e poi si va alla biblioteca e si vedono i lavori. Tra l'altro stiamo facendo anche un po' di crowdfunding per la biblioteca, perché insomma le spese sono tante, per cui se il pubblico ci vuole aiutare verrà poi omaggiato, ricordato, invitato alle attività che la Cineteca svolgerà. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento con 1968-1978 Italian Box Office al Cinema Spazio Oberdan, al Museo Interattivo del Cinema, al Teatro Franco Parenti, dal 3 al 28 maggio. Un ringraziamento e un saluto a Matteo Pavesi della Cineteca, Fondazione Cineteca Italiana. Matteo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a presto. Grazie, grazie, grazie. Siamo con Giulia Esposito di Lab 80 per parlare del film Day di Anahita Gazvinizadeh, in uscita in sala il 15 maggio. Giulia, ben trovata. Grazie mille. Lo raccontiamo? Certo, volentieri. Allora, il film è un'opera prima della giovanissima regista di origine iraniana e che però attualmente lavora e vive a Chicago, e parla di DJ, un adolescente che ha 14 anni e che si fa chiamare Zei. Zei naturalmente in inglese significa loro, e Zei appunto viene appellato al plurale perché si trova nella situazione di sospensione di una scelta, la scelta se compiere o meno una transizione di genere. Quindi sta prendendo dei bloccanti, degli ormoni, per non far sopraggiungere la pubertà, quindi per rimandare la pubertà e avere così il tempo di riflettere su se stesso e decidere appunto se essere uomo o essere donna. Sì. Noi non sappiamo se Jay sia nato come maschio o come femmina, e il film non lo fa capire. Noi arriviamo nel mezzo di questa storia in un momento in cui Jay si ritrova nella situazione di dover decidere, quindi il suo tempo dell'attesa della sospensione sta finendo, e in questi giorni i suoi genitori sono lontani per un viaggio, sono assenti, si ritrova con la sorella e con il fidanzato di lei, un ragazzo iraniano, con cui entrerà in contatto e di cui conoscerà poi anche la famiglia. Quindi una situazione di appunto di sospensione e di apertura verso qualcosa di nuovo per l'adolescente protagonista. Giulia, in tutto questo c'è un quadro sociale, familiare, anche medico, che mi sembra abbastanza avanzato rispetto all'assistenza a questa persona. Sì, allora, intanto c'è da dire che è un lavoro particolare che non si sofferma molto sui dettagli appunto del genere in sé, ma che riflette più sulla persona e sull'identità in generale. Sì. Del giovane che appunto si apre e deve conoscere il mondo. Però senz'altro la situazione è di il contesto è di grande apertura nei confronti di questa scelta. C'è appunto l'assistenza medica e psicologica nel sostenere Jay a compiere la propria scelta. Di contro c'è una situazione di assenza dei genitori che non è posta in modo particolarmente teso e drammatico o problematizzato, però è evidente, e c'è invece una loro presenza virtuale tramite le videochiamate, quindi in qualche modo anche questa potrebbe essere una riflessione sull'identità e su frammentata e sui contatti tra le persone. C'è però sicuramente un'atmosfera di serenità e di anche di rispetto nei confronti della differenza, delle differenze tra le persone, in cui anche tutti i momenti che ovviamente non sono negati di possibile minaccia, possibile occasione di scontro o di bullismo da parte dei coetanei o di discussione con la famiglia, in realtà in questo scorcio che la regista ci mostra nel film si risolvono tutti in un modo molto sereno e pacato, e appunto ci lasciano con una tensione che sì, si va a creare per l'intensità dei temi trattati, ma che poi ci fa anche tirare un po' un sospiro di sollievo e sicuramente appunto intravedere anche una possibilità di non scegliere e soprattutto di far sì che questo tipo di scelta rimanga privata nell'individuo, ma anche appunto che esiste anche la situazione di non scegliere tra due diciamo etichette ben predefinite. Sì. Giulia, è stato distribuito all'estero finora questo lavoro? Sì, allora il film intanto è stato presentato a Cannes nel 2017 e ha avuto anche un'anteprima italiana a Torino Film Festival. Sì. Noi lo distribuiremo dal 15 maggio e avremo anche l'onore di avere ospite la regista che arriverà appunto a presentare il film in occasione dell'anteprima del 15 maggio a Orlando, il festival queer di Bergamo a tema identità, relazioni e possibilità, a Parma al Cinema Edison e a Milano al Cinema Beltrade, quindi avremo tre occasioni per far incontrare la regista al pubblico. Ci dai anche tutti i riferimenti web per seguire il suo percorso? Sì, certo. Allora, su labottanta.it/distribuzione si trova la scheda del film e saranno sempre tenute aggiornate le date in cui sarà possibile vederlo. Benissimo. Allora, ricordiamo il film They di Anahita Ghazvinizadeh, in uscita in sala il 15 maggio. Un ringraziamento e un saluto a Giulia Esposito di Lab 80. Giulia, un abbraccio e a presto. Grazie, a presto, grazie mille. Ciao. Siamo con Andrea Groplero, regista del film Comunismo Futuro,

si riprende fiato, le vacanze, da quella che poi è la realtà di tutti i giorni. Giovanni, dal 2014 più o meno con quante persone hai interagito per il tuo film? Centinaia, perché per poter poi girare nel 2016 il film, ho cercato di fondermi appunto con questa comunità che diventa un vero micromondo, con una comunità tutta sua, diciamo una tribù nel senso buono del termine, con dinamiche e legami forti nel passato. Di conseguenza io ho speso 2 estati prima di girare per entrare in sintonia e per farmi anche accettare poi e per preparare l'arrivo della macchina cinema nella spiaggia, perché non dovevo andare ad ostacolare quelle che poi è la loro vacanza, quindi doveva essere un'entrata il più indolore possibile rispetto all'arrivo appunto della troupe in spiaggia, e questo è stato possibile grazie al lavoro precedente svolto in spiaggia e che mi è servito anche per selezionare il cast e i giusti protagonisti del film. Giovanni, che impressioni ne hai ricavato? Ma le impressioni che ho ricavato sono quelle là che, più che una crisi economica, alla fine facciamo i conti con quella che è una crisi identitaria e culturale. Cioè, questo si sente nel film. E quindi questa amarezza e questa corsa rispetto a trovare un lavoro, a trovare una soluzione economica, a trovare un posto migliore, e alla fine si affonda in un momento di smarrimento più ampio. Il film comunque resta, e questa era la mia intenzione di partenza, un film godibile, divertente, spensierato, che a un secondo livello trasmette una riflessione sul paese più profonda. Senti, che forma distributiva hai scelto? Il distributore è Wonder Pictures, sì. Un distributore insomma abbastanza attento a quelli che sono i film più particolari, perché il nostro è un film molto particolare per certi aspetti, e loro ora si preparano appunto il 14, 15 e 16 maggio a questa uscita evento nelle sale italiane, che sarà anche un vero e proprio momento per capire appunto la forza del film sul pubblico e la risposta che avremo in Italia. All'estero il film è andato molto bene, anche perché insomma rappresenta ha un fascino quasi esotico per il resto del mondo. Il film oltre all'anteprima al Festival di Venezia in selezione ufficiale è stato in giro per tantissimi festival che sono importanti, però mi rendo conto magari più per gli addetti ai lavori, come IFA, Vision d'Urel, Hot Dogs a Toronto. Sono tornato settimana scorsa da Toronto, dal Nord America, dove il film già era stato premiato come progetto un anno fa. Sì. Senti... Quindi l'attesa è insomma grande, perché comunque sono curioso anche di capire come il pubblico italiano risponderà al film. Ecco, proprio a questo proposito, in quante sale e poi se ci saranno anche proiezioni accompagnate dalla tua presenza? Proiezioni accompagnate dalla mia presenza sicuramente. Per quanto riguarda il numero delle sale, io adesso non ho un riferimento preciso. Ok. Perché ci sono già delle sale e questo numero sta crescendo nel corso di questa settimana, a cui si aggiungeranno altri programmatori, altri esercenti che prenderanno il film. Io spero il numero più ampio possibile, perché è chiaro che nell'uscita evento in 3 giorni, quindi si concentra il tempo. Mi auguro che la risposta sia buona anche dal punto di vista dei programmatori. Allora, ricordiamo l'uscita in sala dal 14 al 16 maggio di Happy Winter di Giovanni. Happy Winter, probabilmente a casa gli ascoltatori si chiederanno come mai Happy Winter per un film girato totalmente in spiaggia? Perché al termine della stagione estiva, quando è il momento di svuotare le capanne e tornare a quella che è la vita di tutti i giorni e confrontarsi con la vita di tutti i giorni, i bagnanti si augurano un buon inverno, poiché si rivedranno la stagione successiva. E quindi è un saluto questo buon inverno, che insomma pieno di tenerezza e anche romantico per certi versi, che ha dato poi il titolo al film. Giovanni, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Federico, grazie a voi e andate al cinema a vedere Happy Winter. Un saluto. Siamo con Mauro Danesi, curatore del Festival Orlando, Festival Queer a Bergamo dal 15 al 20 maggio, la quinta edizione. Mauro, ben trovato. Grazie mille, grazie a voi. Raccontiamo a chi ci ascolta cos'è intanto Orlando. Allora, Orlando è un festival multidisciplinare sulle tematiche del queer, quindi sulle identità di genere, sugli orientamenti sessuali, ma anche sulle nuove prospettive, sulla realtà, sui corpi e sulle relazioni. Dicevo multidisciplinare perché ha soprattutto cinema, ma anche incursioni nelle arti performative dal vivo, nei laboratori, nelle mostre e nell'arte in generale. I luoghi quali saranno? Allora, il luogo principale, la nostra casa, è l'auditorium di Piazza Libertà, che è anche il luogo dove risiede la Bottanta Film, che è uno dei promotori di questo progetto. Ma anche attiveremo più di 11 luoghi nella città, perché ci piace lavorare sì nel centro, ma anche nelle periferie, anche negli spazi giovani, anche nei luoghi storici della città, e quindi appunto far muovere un po' il pubblico in tutta la città. Sì. Concentrandoci sull'aspetto cinematografico, quante saranno le proposte di quest'anno? Allora, le proposte, il numero giusto, devo un attimo contarle. Allora, sono, diciamo, sono circa una quindicina i film principali. Tra questi abbiamo una prima nazionale che è Going West, Red Vest, un film norvegese, che abbiamo scelto perché, per la propria ironia e perché è molto toccante, parla di un padre e un figlio in viaggio. Il padre è un padre sui generis, è un crossdresser, ama vestirsi da donna pur non essendo omosessuale. Questo abbiamo scelto e selezionato al BFI di Londra. Avremo poi Bay, che verrà distribuito poi da quel giorno dalla Bottanta Film, con la presenza di Anahita Gazzini-Zadeh qui per la prima volta in Italia, oppure anche il film di Bertrand Mandicot, Les Garçons Sauvages, presentato al Festival di Venezia, quindi qualcuno l'avrà già visto, ed è un film ironico, surreale e onirico soprattutto, con appunto la classica visionarietà di Mandicò. Ma avremo anche cortometraggi, per esempio Qui è Rama, che è stato presentato in Italia all'Overs Film Festival recentemente a Torino. È un documentario che abbiamo amato perché utilizza un collage di materiali di archivio e musiche pop per raccontare l'evoluzione e la rivoluzione del movimento LGBT inglese. Questi sono alcuni, ma appunto sono moltissimi i prodotti di quest'anno, diciamo. Un po' da tutto il mondo. Esattamente, è un po' un viaggio, abbiamo anche visto così, perché davvero a partire da Vej, che quindi è una regista iraniana, poi ci spostiamo ovviamente in Inghilterra con più di 3 film, America, Francia. Abbiamo anche Tinta Bruta, per esempio, che ci porta in Brasile, è un film che abbiamo scelto alla Berlinale, ma ha anche vinto il Lovers recentemente e ci porta in Brasile. Red Vest e Going West in Norvegia, e quindi sì, è un po' un viaggio che finisce poi con il film The Maiden di Park Chan-wook, quindi finiamo in Corea. Mauro, quali sono le principali rivendicazioni, le tematiche del movimento GLBTQI che avete ospiti al festival? Allora, è una bella domanda questa. In generale potrei dire che socialmente quella rivendicazione principale è ancora purtroppo sulla discriminazione, più in generale, quindi questo anche sul territorio nazionale, cioè abbiamo una legge sulle unioni civili, ma questo non ha ancora purtroppo cambiato a livello culturale, a livello sociale, il fatto che le discriminazioni siano ancora attualmente presenti e emerge anche questo da una recentissima analisi di Doxa per Amnesty International presentata a aprile. Direi che nei film che abbiamo selezionato è ancora questo che Sì. esce fuori, che chi fuoriesce dalle categorie principali ancora purtroppo deve fare una fatica in più per trovare la propria nicchia e per essere accettato o accettata in questa sua vita e in questa sua essenza. Questo direi si vede tantissimo in Tinta Bruta, ma anche in Red Vest, l'anteprima nazionale di cui vi parlavo, moltissimo in Vej, che però ci stupisce perché lì le discriminazioni sono come inesistenti nei comprimari che attorniano il protagonista o la protagonista. E questo è veramente potente perché da spettatore ci aspetteremmo tutt'altro, ci aspetteremmo la discriminazione a cui siamo abituati.